li aveva fatti salire sul terrazzo e li aveva nascosti sotto i mannelli di lino che vi aveva posto. Quelli li inseguirono verso il Giordano fino ai posti di guado, mentre, usciti che furono gli inseguitori, venne chiusa la porta. Prima ancora che fossero coricati, la donna era salita da loro sul terrazzo e disse loro: «Io so che il Signore vi ha dato questo paese, e noi siamo invasi di paura per voi, e tutti gli abitanti della regione tremano dinanzi a voi. Abbiamo saputo, infatti, che il Signore ha asciugato le acque del Mar Rosso davanti a voi quando usciste dall'Egitto, e che cosa avete fatto ai due re amorrei al di là del Giordano, Sicon e Og, votandoli alla morte». All'udir queste cose è venuto meno il cuore, e a nessuno più è venuto coraggio davanti a voi, perché il Signore, vostro Dio, è Dio lassù in cielo e quaggiù in terra. Dunque, giuratemi per il Signore che come vi ho trattato con bontà, così voi tratterete con bontà la casa di mio padre. Me ne darete un segno sicuro, cioè lascerete in vita mio padre e mia madre, i miei fratelli e le mie sorelle e tutto ciò che loro appartiene. Preserverete dalla morte le nostre persone. Quelli le risposero: «Noi esporremo la nostra vita fino a morire per voi, purché però non sveliate questo nostro affare. Quando poi il Signore ci avrà consegnata la città, noi useremo con voi bontà e lealtà». Allora essa li fece scendere dalla finestra con una corda, perché la sua casa poggiava sulle mura ed essa stessa aveva il suo alloggio sulle mura. Quindi disse loro: «Andate verso la montagna per non imbattervi nei vostri inseguitori. Là state nascosti per 3 giorni finché essi siano ritornati. Poi riprenderete la vostra strada». Le risposero quelli: «Noi saremo innocenti di quanto ci hai fatto giurare quando noi entreremo nel paese, se tu non attaccherai questa corda intrecciata di filo scarlatto alla finestra per la quale tu ci fai discendere, e non radunerai tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli e tutti i tuoi familiari in casa presso di te. Se al contrario qualcuno uscirà fuori di casa tua, il suo sangue ricadrà sul suo capo e noi ne saremo innocenti. Ma chiunque sarà in casa con te, il suo sangue ricadrà sulle nostre teste se qualcuno gli metterà le mani addosso. Ma se tu rivelassi questo nostro affare, noi saremo sciolti dalla promessa che tu ci hai fatto giurare». Ella disse: «Sia come avete detto». Li congedò e se ne andarono. Essa intanto attaccò la corda di filo scarlatto alla finestra. Quelli, usciti che furono, se ne andarono verso la montagna, dove rimasero per 3 giorni, finché fossero rientrati quelli che li inseguivano, i quali, a loro volta, li avevano ricercati per tutte le strade senza ritrovarli. Allora i due ritornarono dalla montagna, passarono il fiume e si recarono da Giosuè, figlio di Nun, cui raccontarono tutto quanto era loro accaduto. Quindi dissero a Giosuè: «Certamente il Signore ci ha dato nelle mani tutta quella regione, perché tremano addirittura i suoi abitanti dinanzi a noi». Giosuè si levò di buon mattino. Egli e tutti i figli di Israele si mossero da Sittim e pervennero fino al Giordano, dove si fermarono prima di attraversare. Al termine di 3 giorni, gli ufficiali passarono per tutto l'accampamento e dettero al popolo quest'ordine: «Quando vedrete l'arca dell'alleanza del Signore, Dio vostro, e i sacerdoti leviti che la portano, muovetevi dal vostro posto e seguitela. Ci sarà però tra voi e l'arca una distanza di circa 2000 cubiti. Non avvicinatevi ad essa. Così voi potrete sapere che strada fare, perché voi non siete mai passati per questa strada, né ieri né avanti ieri». Giosuè disse quindi al popolo: «Santificatevi, perché domani il Signore farà meraviglie in mezzo a voi». Ai sacerdoti Giosuè parlò così: «Prendete l'arca dell'alleanza e passate in testa al popolo». Quelli presero l'arca dell'alleanza e cominciarono a marciare alla testa del popolo. Allora il Signore disse a Giosuè: «Quest'oggi

passarono davanti al Signore, pronti a combattere nelle steppe di Gerico. In quel giorno il Signore esaltò Giosuè davanti a tutti i figli di Israele e lo venerarono come avevano venerato Mosè per tutta la sua vita. Il Signore parlò a Giosuè e disse: «Comanda ai sacerdoti che portano l'arca dell'alleanza di risalire dal Giordano». Giosuè comandò ai sacerdoti: «Venite su dal Giordano». Quando i sacerdoti che portavano l'arca dell'alleanza del Signore risalirono su da mezzo il Giordano, appena la pianta dei loro piedi toccò la terra asciutta, le acque del Giordano ritornarono nel loro letto e ripresero a scorrere come prima su tutta l'ampiezza delle sponde. Fu il decimo giorno del primo mese che il popolo risalì dal Giordano e si accampò a Galgala, sul confine orientale di Gerico. Lì, a Galgala, Giosuè fece erigere le 12 pietre che avevano preso di mezzo al Giordano. Poi disse ai figli di Israele: «Quando i vostri figli domanderanno un giorno ai loro padri che cosa significano queste pietre, allora voi insegnerete ai vostri figli che qui Israele ha attraversato il Giordano all'asciutto perché il Signore, vostro Dio, ha asciugato le acque del Giordano davanti a voi finché non siete passati, come già aveva fatto lo stesso Signore, vostro Dio, al Mar Rosso che asciugò davanti a noi finché non fummo passati. In modo che sappiano tutti i popoli della terra che la mano del Signore è potente, e tutti voi temiate sempre il Signore Dio vostro». Quando tutti i re amorriti che abitavano ad ovest del Giordano e tutti i re cananei che erano sul lungomare seppero che il Signore aveva asciugato le acque davanti ai figli di Israele finché essi non furono passati, mancò loro ogni coraggio e nessuno più si sentì forza davanti ai figli di Israele. In quel tempo il Signore disse a Giosuè: «Fatti dei coltelli di pietra e circoncidi di nuovo i figli di Israele». Giosuè si procurò dei coltelli di pietra e circoncise i figli di Israele presso il colle di Aralot. Questo è il motivo per il quale Giosuè li fece circoncidere. Tutta la gente che era uscita dall'Egitto, i maschi, tutti quelli atti alla guerra, erano morti strada facendo nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto. Ora tutto questo popolo che era uscito dall'Egitto era circonciso, ma quelli che erano nati nel deserto durante il viaggio dopo l'uscita dall'Egitto non erano circoncisi. Per 40 anni, infatti, i figli di Israele vagarono nel deserto in modo che perì tutta la nazione, cioè tutti quelli che nel momento dell'uscita dall'Egitto erano atti alla guerra. Questi non avevano ascoltato la parola del Signore, quando egli aveva giurato loro che non avrebbe consentito che vedessero la terra che aveva giurato di dare ai loro padri, una terra abbondantissima in latte e miele. Ma in loro vece egli suscitò i loro figli. Questi fece circoncidere Giosuè, perché questi erano incirconcisi, non essendo stati circoncisi durante il viaggio. Quando finì di circoncidersi tutta la nazione, rimasero fermi nell'accampamento finché furono guariti. Allora il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l'onta dell'Egitto». Così quel luogo fu chiamato Galgala fino a questo giorno. Stettero quindi accampati i figli di Israele in Galgala e celebrarono la Pasqua il 14 del mese, la sera, nella pianura di Gerico. Alla mattinata della Pasqua mangiarono dei prodotti della terra, pane azzimo e spighe abbrustolite in quello stesso giorno. Da quella stessa mattinata, allorché cominciarono a mangiare i frutti del paese, non ci fu più la manna. Non ci fu più la manna per i figli di Israele, ed essi mangiarono quell'anno i frutti della terra di Canaan. Mentre Giosuè si trovava presso Gerico, levò lo sguardo, ed ecco vide un uomo in piedi dinanzi a sé con in mano una spada sguainata. Giosuè gli andò incontro e gli rivolse la parola: «Sei dei nostri oppure dei nostri avversari?» Quegli gli rispose: «Io, capo dell'esercito del Signore, arrivo in questo momento. Allora Giosuè cadde bocconi per adorarlo e poi disse: che cosa comanda il mio capo al suo servo? Il capo dell'esercito del Signore rispose a Giosuè: togli dai piedi i sandali, perché questo luogo dove stai è santo. Giosuè obbedì prontamente. Gerico era saldamente sbarrata dinanzi ai figli di Israele. Nessuno poteva né uscire né entrare. Il Signore disse a Giosuè: vedi, io ti do in mano Gerico e il suo re con i suoi valorosi guerrieri. Tutti voi, uomini atti alla guerra, circonderete la città, facendo il giro della medesima una volta. Così farai per 6 giorni. 7 sacerdoti porteranno 7 trombe di corno di montone davanti all'arca. Il 7° giorno farete 7 volte il giro della città e i sacerdoti suoneranno le trombe. Quando vi sarà un lungo suono di corno di montone e voi udrete il suono della tromba, tutto il popolo uscirà in un forte grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno all'istante e tutto il popolo irromperà, ciascuno dalla parte davanti a sé. Giosuè, figlio di Nun, convocò i sacerdoti e disse loro: prendete l'arca dell'alleanza e 7 sacerdoti portino le 7 trombe di corno di montone davanti all'arca del Signore. Poi disse al popolo: avanzate per fare il giro della città, gli armati passino davanti all'arca del Signore. Secondo quanto aveva ordinato Giosuè al popolo, 7 sacerdoti portando 7 trombe avanzarono e suonarono le trombe. L'arca dell'alleanza del Signore veniva subito dietro di loro. Gli armati andavano avanti ai sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia veniva dietro l'arca. Si marciava al suono delle trombe. Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine: non gridate, non fate sentire la vostra voce, neppure una parola esca dalla vostra bocca fino al giorno in cui vi dirò gridate, allora griderete. Fece fare all'arca del Signore il giro della città tutti intorno una volta, poi tornarono agli accampamenti e vi pernottarono. Il dì seguente Giosuè si levò di buon mattino e i sacerdoti presero l'arca del Signore. 7 sacerdoti con le 7 trombe di corno avanti l'arca del Signore, camminando suonavano le trombe. Gli armati andavano avanti ad essi e la retroguardia andava dietro l'arca del Signore. Si marciava al suono delle trombe. Anche in questo 2° giorno fecero una volta il giro intorno alla città per tornare poi agli accampamenti. Così fecero per 6 giorni. Il 7° giorno, levatisi allo spuntar dell'alba, fecero il giro della città allo stesso modo 7 volte. Solo quel giorno girarono 7 volte intorno alla città. Al 7° giro i sacerdoti suonarono le trombe e Giosuè disse al popolo: gridate, perché il Signore vi dà la città. Essa e tutto quanto vi è dentro sia votato allo sterminio per il Signore. Sia salva soltanto la meretrice Rahab e tutti quelli che sono in casa con lei, perché essa nascose gli esploratori che noi avevamo inviato. Quanto a voi, guardatevi bene da ciò che è votato allo sterminio, per non essere anche voi esecrabili prendendo qualche cosa votato allo sterminio. Questo sarebbe un esporre all'interdetto gli accampamenti di Israele e portarli a rovina. Tutto l'argento e l'oro, tutti gli oggetti di bronzo e di ferro sono consacrati al Signore e dovranno pervenire al tesoro del Signore. Il popolo allora gridò e suonarono le trombe. Appena il popolo udì il suono delle trombe ed ebbe emesso un formidabile grido di guerra, caddero su se stesse le mura della città. Ed il popolo salì in città ciascuno davanti a sé e se ne impossessarono. Sterminarono tutto quanto era nella città, uomini e donne, giovani e vecchi. Perfino i buoi e gli asini passarono a fil di spada. Ai due uomini che avevano esplorato la regione, Giosuè disse: «Andate a casa della prostituta e fatene uscir fuori tutto ciò che le appartiene, come le avete giurato». I giovani esploratori andarono e condussero fuori Raab, suo padre, sua madre, i suoi fratelli e tutto ciò che le apparteneva. Condussero fuori anche tutti quelli della sua parentela, collocandoli al sicuro fuori degli accampamenti di Israele. Bruciarono quindi la città e tutto quello che vi era, eccetto l'argento e l'oro e gli oggetti di bronzo e di ferro che furono aggiunti al tesoro della casa del Signore. Giosuè fece salvare la meretrice Raab, tutta la sua parentela e quanto le apparteneva, ed essa è rimasta in mezzo ad Israele fino ad oggi, perché aveva nascosto i messi che Giosuè aveva mandato ad esplorare Gerico. In quel giorno Giosuè fece questo giuramento: «Maledetto davanti al Signore, l'uomo che si presenterà per riedificare questa città di Gerico. Sul suo primogenito ne getterà le fondamenta e sul suo figlio minore ne alzerà le porte». Il Signore stava con Giosuè e la sua fama si sparse in tutto il paese. I figli di Israele, però, commisero una mancanza nell'eseguire lo sterminio, perché Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerach della tribù di Giuda, prese qualche cosa interdetta, e il Signore arse di sdegno contro i figli di Israele. Giosuè intanto inviò uomini da Gerico verso Ai, che è presso Bet-Aven, a oriente di Betel, e disse loro: «Andate ad esplorare il paese». Gli uomini salirono ed esplorarono Ai. Tornarono quindi da Giosuè e dissero: «Non salga tutto il popolo, 2,000 o 3,000 uomini salgano ed attacchino Ai. Non stare ad affaticare tutto il popolo, perché là c'è poca gente». Salirono dunque soltanto 3,000 soldati scelti dalla massa, ma dovettero fuggire di fronte agli uomini di Ai. Questi ne uccisero circa 36 e li inseguirono dalla porta fino a Sabarim e continuarono a percuoterli lungo la discesa. Allora al popolo mancò il coraggio. Si sciolsero come acqua. Giosuè si strappò le vesti e si gettò bocconi davanti all'arca del Signore fino alla sera. E così fecero gli anziani di Israele, cospargendosi la testa di polvere. Giosuè pregò quindi così: «Signore Dio, perché hai fatto passare il Giordano a questo popolo? Forse per darci nelle mani dell'Amorreo e farci distruggere? Ah, ci fossimo contentati di restare al di là del Giordano! Ah, Signore, che posso dire io ora che Israele ha dovuto voltare le spalle davanti ai suoi nemici? Lo verranno a sapere i cananei e tutti gli abitanti della regione si rivolteranno contro di noi e cancelleranno dalla terra il nostro nome. Cosa farai tu allora per il tuo grande nome?» Il Signore rispose a Giosuè: «Levati su, a che serve starsene bocconi? Israele ha peccato. Hanno trasgredito l'alleanza che io avevo imposto loro prendendosi roba interdetta. Hanno rubato, hanno dissimulato nascondendo nei propri bagagli. Perciò i figli di Israele non potranno tener fronte ai loro nemici, bensì volteranno loro le spalle perché sono divenuti infedeli. Io non sarò più con voi se non distruggete l'anatema che è in mezzo a voi. Levati, fa purificare il popolo, dicendo: santificatevi per domani, perché così ha parlato il Signore, Dio di Israele. L'interdetto è in mezzo a te, Israele. Tu non potrai più tener fronte ai tuoi nemici finché non avrete tolto la causa di interdetto in mezzo a voi. Domani all'alba vi presenterete per tribù. La tribù che il Signore per sorteggio avrà designato si presenterà per famiglie, e la famiglia che il Signore avrà designato si presenterà per casati, e i casati uno per uno. Colui che sarà sorpreso nell'affare dell'interdetto sarà bruciato con tutta la sua famiglia, perché ha trasgredito l'alleanza del Signore

di dare a voi tutta la terra e distruggere di fronte a voi tutti gli abitanti del paese. Abbiamo avuto timore dinanzi a voi per le nostre vite, perciò abbiamo fatto tal cosa. Ed ora eccoci nelle tue mani. Fa pure di noi quello che ti sembra buono e giusto. Giosuè li trattò così e li liberò dalle mani degli israeliti che non li uccisero. E da quel giorno li stabilì come taglialegna e portatori d'acqua per tutto il popolo e per l'altare del Signore, nel luogo che egli avrebbe scelto fino ad oggi. Quando Adonizedek, re di Gerusalemme, venne a sapere che Giosuè aveva preso Ai e l'aveva votata allo sterminio e che, come aveva trattato Gerico il suo re, così aveva trattato Ai e il suo re, e che gli abitanti di Gabaon avevano fatto pace con i figli di Israele e si trovavano in mezzo ad essi, ne fu terrorizzato, perché Gabaon era una città grande come una capitale ed era più grande di Ai, e i suoi uomini erano tutti valorosi. Allora Adonizedek, re di Gerusalemme, mandò a dire a Oam, re di Ebron, a Piream, re di Yarmut, a Iafia, re di Lachis, e a Debir, re di Eglon: «Salite fin quassù da me e aiutatemi ad espugnare Gabaon, perché ha fatto pace con Giosuè e con i figli di Israele». Riunitisi quindi i cinque re amorriti, il re di Gerusalemme, il re di Ebron, il re di Yarmut, il re di Lachis e il re di Eglon salirono con tutte le loro forze, si accamparono davanti a Gabaon e la salirono. I Gabaoniti allora mandarono a dire a Giosuè all'accampamento a Galgala: «Non ritrarre il tuo aiuto ai tuoi servi, sali presto fino a noi e salvaci con il tuo aiuto, perché si sono coalizzati contro di noi tutti i re amorrei che abitano sulle montagne». Giosuè salì allora da Galgala, lui insieme a tutti i suoi uomini atti alla guerra, tutti i guerrieri valorosi. Il Signore disse a Giosuè: «Non aver paura di loro, perché io te li do nelle mani. Nessuno di quelli potrà resisterti». Giosuè piombò loro addosso all'improvviso. Tutta la notte aveva continuato a salire da Galgala. Il Signore li mise in confusione davanti a Israele, infliggendo loro una grave sconfitta presso Gabaon. Poi li inseguì verso la salita di Bet-Horon, continuando a percuoterli fino ad Azeca e a Makeda. Quando nella loro fuga davanti a Israele si trovavano nella discesa di Bet-Horon, il Signore scagliò su di loro dal cielo pietre così grosse fino ad Azeca che quelli morivano, sicché furono più quelli che morirono per quella grandinata di pietre che non quelli che uccisero di spada i figli di Israele. In quel tempo, quando cioè il Signore dette gli amorrei in balia dei figli di Israele, Giosuè parlò al Signore, esprimendosi così alla presenza di Israele: «O sole, fermati su Gabaon, e tu, o luna, nella valle di Aialon». E il sole si fermò, e la luna ristette, finché il popolo si fu vendicato dei suoi nemici. Non sta forse scritto nel libro del giusto: «Il sole rimase fermo in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare quasi tutto un giorno? Non vi fu mai, né prima né dopo, un giorno come quello in cui il Signore abbia esaudito la preghiera di un uomo». Evidentemente il Signore combatté per Israele. Dopodiché Giosuè e con lui tutto Israele tornarono all'accampamento a Galgala. Quei cinque re fuggirono e andarono a nascondersi in una caverna presso Makeda. Fu riferito a Giosuè: «Sono stati trovati i cinque re nascosti nella grotta di Makeda». Egli disse: «Rotolate grosse pietre all'imbocco della caverna e mettetevi degli uomini per sorvegliarli. Voi intanto non vi fermate, ma continuate ad inseguire i vostri nemici, prendendoli alle spalle, non permettendo loro così di rientrare nelle loro città, perché il Signore, vostro Dio, li ha messi nelle vostre mani». Quando Giosuè e i figli di Israele ebbero finito di massacrarli con una strage tale da sterminarli, e i superstiti di essi, fuggendo, si salvarono entrando nelle città fortificate, tutto il popolo tornò sano e salvo all'accampamento presso Giosuè, in pace. Nessuno mosse più la lingua contro i figli di Israele. Allora Giosuè disse: «Aprite l'ingresso della caverna e tratti fuori dalla caverna quei cinque re, conducetemeli». Così fecero e condussero a lui cinque re fuori della caverna: il re di Gerusalemme, il re di Ebron, il re di Armut, il re di Lachis e il re di Eglon. Quando quei re furono condotti a Giosuè, questi radunò tutto Israele e disse ai capi dell'esercito che li avevano accompagnati: «Avvicinatevi e mettete i vostri piedi sul collo di questi re». Essi si avvicinarono e posero i loro piedi sul collo di quelli. Disse quindi loro Giosuè: «Non temete e non perdetevi di coraggio, ma siate forti e valorosi, perché così il Signore tratterà tutti i vostri nemici contro i quali dovrete combattere». Dopo ciò Giosuè li fece colpire ed uccidere e li fece appendere a cinque pali sui quali rimasero appesi fino alla sera. Al tramontar del sole Giosuè comandò di calarli dai pali e li fece gettare nella grotta in cui si erano nascosti, all'imboccatura della quale posero delle grosse pietre che vi si trovano anche oggi. In quel giorno Giosuè prese Macheda e la passò a fil di spada con il suo re e votò all'interdetto quella e tutti i suoi abitanti senza lasciare che alcuno scampasse, e trattò il re di Macheda come aveva trattato il re di Gerico. Poi Giosuè e quanti erano con lui passarono da Macheda a Libna e assalirono Libna. Il Signore mise nelle mani di Israele anche questa città e il suo re, facendola passare a fil di spada con tutti quelli che vi abitavano, non lasciandovi alcun superstite, e trattò il suo re come aveva trattato il re di Gerico. Quindi Giosuè con tutto Israele da Libna passò a Lachis, che assediò e prese d'assalto. Il Signore lasciò Lachis in potere di Israele, che la prese il secondo giorno e la passò a fil di spada con tutti i suoi abitanti, tutto come aveva fatto a Libna. In quel tempo Oam, re di Gezer, salì in aiuto di Lachis, ma Giosuè lo batté insieme al suo esercito, sì da non lasciare alcun superstite. Quindi Giosuè e con lui tutto Israele passò da Lachis a Eglon, che assediarono e assalirono. La occuparono quello stesso giorno e la passarono a fil di spada, votando quello stesso giorno allo sterminio tutti quelli che vi erano, tutto come era stato fatto con Lachis. Poi Giosuè e con lui tutto Israele salì da Eglon a Ebron e l'attaccò. Presala, la passarono a fil di spada con il suo re e le sue città e tutti gli abitanti, non lasciando un superstite, tutto come aveva fatto con Eglon, e votò allo sterminio essa e tutti quelli che vi abitavano. Poi Giosuè e con lui tutto Israele si volse verso Debir e l'attaccò. Prese la città, il suo re e tutte le sue località, e passò a fil di spada e votò allo sterminio tutti i suoi abitanti, non lasciando alcun superstite. Come aveva agito con Ebron, così agì con Debir e il suo re, come aveva trattato anche Libna e il suo re. Così Giosuè conquistò tutta la regione, la montagna, il Negeb, il basso piano, le pendici e tutti i loro re. Non lasciò alcun superstite e votò allo sterminio ogni vivente, come aveva ordinato il Signore, Dio di Israele. Giosuè li sterminò da Cades Barnea fino a Gaza e tutta la regione di Gosen fino a Gabaon. In una sola campagna Giosuè prese tutti quei re e il loro territorio, perché il Signore, Dio di Israele, combatté per Israele. Alla fine Giosuè ritornò all'accampamento in Galgala. Quando ne ebbe notizia, Jabin, re di Azor, mandò dei messi ad informare Jobab, re di Madon, il re di Simron, il re di Aksaf e i re che erano a settentrione sulle montagne nell'Araba a sud di Kinaroth nel basso piano e sulle colline di Dor verso il mare. I Cananei si trovavano a oriente e a occidente, e gli Amorrei, gli Ittiti, i Periziti, i Jebusei sulle montagne, gli Evei ai piedi dell'Ermon nella regione di Mizpa. Essi uscirono in campo con tutti i loro eserciti, una moltitudine ingente come la sabbia che è sulla spiaggia del mare, con cavalli e carri in grande quantità. datisi convegno, tutti questi re vennero ad accamparsi insieme presso le acque di Merom per combattere contro Israele. Ma il Signore rassicurò Giosuè: «Non aver timore di quelli, perché domani, alla stessa ora, io li mostrerò tutti uccisi davanti a Israele. Farai tagliare i garetti ai loro cavalli e farai bruciare i loro carri». Così Giosuè e con lui tutti quelli atti alla guerra piombarono all'improvviso su di loro presso le acque di Merom e li assalirono. Il Signore li dette in mano di Israele, che li batté e li inseguì fino a Sidone la Grande e sino a Misrefot Maim e fino nella vallata di Mizpah verso oriente, facendone una strage tale da non lasciarne uno superstite. Giosuè li trattò secondo quanto aveva detto il Signore, fece tagliare i garetti ai loro cavalli e fece bruciare i loro carri. In quello stesso tempo Giosuè, voltandosi, prese Azor e uccise di spada il suo re, perché Azor era stata già la capitale di tutti quei regni. Passò a fil di spada tutti quelli che vi si trovavano, votandoli allo sterminio. Non lasciò anima viva e fece dar fuoco a Azor. Giosuè prese tutte le città di quei re e tutti i loro re e li passò a fil di spada, votandoli allo sterminio, come aveva ordinato Mosè, servo del Signore. Israele però non bruciò nessuna delle città che stavano sulle loro colline, ad eccezione di Azor, che Giosuè fece bruciare. Tutto il bottino di quelle città e il bestiame, i figli di Israele lo saccheggiarono per sé, ma passarono a fil di spada tutti gli uomini fino a sterminarli tutti, senza lasciare anima viva. Come aveva ordinato il Signore al suo servo Mosè, così comandò Mosè a Giosuè, e così fece Giosuè. Non trascurò nulla di quello che il Signore aveva ordinato a Mosè. Così Giosuè prese tutto quel paese, le montagne, tutto il Negeb, tutta la terra di Gosen, il basso piano, l'Araba, le montagne di Israele e i loro bassi piani. Dal monte Calak, che sale verso Seir, fino a Baalgad, nella valle del Libano, ai piedi del monte Ermon. Di tutti i loro re si impadronì e li batté e li fece uccidere. Molto tempo Giosuè ebbe a combattere con tutti quei re. Non ci fu una città che abbia fatto pace con i figli di Israele, eccetto gli Evei che abitavano in Gabaon. Perciò le presero tutte combattendo. Tale era infatti il disegno del Signore, che il loro cuore si ostinasse a proclamare la guerra a Israele, affinché venissero votati allo sterminio senza pietà di loro e fossero estirpati, come aveva comandato il Signore a Mosè. In quel tempo Giosuè si mosse e sterminò anche gli Anachiti dalle montagne, da Ebron, da Debir, da Anab, da tutte le montagne di Giuda e da tutta la parte montana di Israele, e li votò con le loro città allo sterminio. Non rimasero Anachiti nella terra dei figli di Israele, rimasero soltanto a Gaza, a Gat e in Asdod. Giosuè così occupò tutto il paese, come aveva detto il Signore a Mosè e a Giosuè, e lo dette in eredità a Israele, conforme alla loro ripartizione in tribù. Quindi il paese si riposò dalla guerra. Questi sono i re del paese che i figli di Israele sconfissero di là del Giordano, in Transgiordania, nel territorio che va dal torrente Arnon fino al monte Ermon e tutta l'Araba orientale. Sicon, re degli Amorrei, che risiedeva in Chesbon, estendeva il suo dominio da Aroer, che è sulla riva del fiume Arnon, e dentro la valle, su metà del Galaad, fino al fiume Yabok, confine degli Ammoniti, e sull'Araba, fino alla riva orientale del mare di Kinaroth, e fino al mare dell'Araba, il Mar Morto, ad oriente, verso Bet Yesimot, e a sud fin sotto le pendici di Pisga, e il dominio di Og, re del Basan, un superstite dei Refaim, che risiedeva in Astaroth e in Edrei. Si estendeva sul monte Ermon e in Salca, e in tutto il Basan, fino al confine dei Gesuriti e dei Maacatiti, e in metà del Galaad fino al confine di Sicon, re di Chesbon. Mosè, servo del Signore, e i figli di Israele li sconfissero,

e toccava Gerico per terminare al Giordano. Da Tapuac il confine, ad ovest, andava al torrente Cana e terminava al mare. Questa è la porzione dei figli di Efraim, secondo le loro famiglie. Oltre le città riservate ai figli di Efraim in mezzo alla porzione dei figli di Manasse, tutte queste città e i loro villaggi. Non scacciarono però i cananei che abitavano Gezer, perciò i cananei sono rimasti in mezzo ad Efraim sino ad oggi, soggetti a tributo. Questa fu la parte sorteggiata per la tribù di Manasse, che era il primogenito di Giuseppe. A Machir, primogenito di Manasse, padre di Galaad, toccò il Galaad e il Basan, come conveniva ad un uomo di guerra quale egli era. Ebbero la loro parte gli altri figli di Manasse, secondo le loro famiglie, i figli di Abiezer, i figli di Elec, i figli di Asriel, i figli di Sichem, i figli di Chefer e i figli di Semida. Questi erano i figli maschi di Manasse, figlio di Giuseppe, secondo le loro famiglie. Zelofkad, figlio di Chefer, figlio di Galaad, figlio di Machir, figlio di Manasse, non ebbe figli, ma soltanto figlie, che si chiamavano Macla, Noa, Cogla, Milca e Tirza. Si presentarono al sacerdote Eleazaro e a Giosuè, figlio di Nun, e ai capi, dicendo: «Il Signore ha comandato a Mosè di dare anche a noi una porzione in mezzo ai nostri fratelli». Così fu data loro una porzione in mezzo ai fratelli del loro padre, secondo l'ordine del Signore. Così a Manasse toccarono 10 parti oltre la terra del Galaad e del Basan, al di là del Giordano. Le figlie di Manasse ebbero infatti una eredità in mezzo ai figli di lui. La regione del Galaad toccò agli altri figli di Manasse. Il confine di Manasse andava da Aser, Micmetat, che è dinanzi a Sichem, e girava a destra verso Iasi per la sorgente di Tapuac. Così la regione di Tapuac apparteneva a Manasse, mentre Tapuac, ai confini di Manasse, apparteneva ai figli di Efraim. Il confine poi scendeva al torrente Cana. A sud del torrente queste città erano di Efraim in mezzo alle città di Manasse. Il confine di Manasse passava a nord del torrente e terminava al mare. Il territorio a sud apparteneva ad Efraim, a nord a Manasse, e suo confine era il mare. Erano confinanti con Aser a nord e con Issacar ad est. A Manasse appartenevano in Issacar e in Aser Bet-Sean e le sue dipendenze, Ibeam e le sue dipendenze, gli abitanti di Dor e sue dipendenze, gli abitanti di Endor e sue dipendenze, gli abitanti di Taanach e sue dipendenze, gli abitanti di Megiddo e le città dipendenti, 3 contrade. Siccome i figli di Manasse non poterono impossessarsi di queste città, i cananei continuarono ad abitare in quella regione. Quando i figli di Israele diventarono potenti, posero in servitù i cananei, ma non li scacciarono. I figli di Giuseppe parlarono così a Giosuè: «Perché mi hai dato in eredità una sola porzione, una sola misura, mentre sono un popolo numeroso, poiché il Signore mi ha tanto benedetto?» Giosuè rispose loro: «Se sei un popolo numeroso, sali alla foresta e disbosca ivi per conto tuo nella terra dei Periziti e dei Refaim, se è troppo angusta per te la montagna di Efraim». Ripresero i figli di Giuseppe: «Non ci basta la montagna. I cananei che abitano nella pianura, quelli cioè di Bet-Sean e sue dipendenze, e quelli della valle di Israel, hanno carri di ferro». Rispose Giosuè alla casa di Giuseppe, a Efraim e a Manasse: «Tu sei un popolo forte e hai tanta robustezza, non avrai una sola porzione. La montagna infatti sarà tua. Essa, è vero, è una foresta, ma tu la disboscherai e sarà tua con i suoi proventi, poiché tu ne scaccerai i cananei, anche se essi hanno carri di ferro e sono forti». Si riunì quindi tutta la comunità dei figli di Israele in Silo, dove eressero la tenda del convegno.

Molada, Casar Susa, Bala, Asem, Eltolad, Betul, Korma, Siklag, Bet Markabot, Casar Susa, Bet Lebaot, Saruken. 13 città con i loro villaggi. En, Rimmon, Eter, Asan. 4 città e i loro villaggi. Tutti i villaggi che erano intorno a queste città, fino a Baalat Beer, Ramat Negeb. Questa era la porzione della tribù dei figli di Simeone, secondo le loro famiglie. La porzione dei figli di Simeone fu presa da quella dei figli di Giuda, perché la porzione dei figli di Giuda era troppo grande per loro. E così i figli di Simeone ottennero la parte in mezzo alla loro porzione. Il terzo sorteggio venne estratto per i figli di Zabulon, secondo le loro famiglie. Il limite del loro possesso si estendeva fino a Sarid. Di lì il loro confine saliva ad ovest verso Mareala e raggiungeva Dabbeset, e poi il torrente che è di fronte a Jokneam. Da Sarid il confine volgeva ad est, dove sorge il sole, fino al confine di Kislot Tabor, usciva a Daberat e saliva a Yafia. Di là passava in direzione est a Gat Kefer, a Et Kazin, usciva a Rimmon e volgeva verso Nea. Poi il confine piegava a nord verso Cannaton e faceva capo alla valle d'Iftachel. Esso includeva inoltre Katat, Naalol, Simron, Ideala e Betlemme, 12 città e i loro villaggi. Questo fu il possesso dei figli di Zabulon, secondo le loro famiglie, queste città e i loro villaggi. La quarta parte, sorteggiata, toccò a Issacar, ai figli di Issacar, secondo le loro famiglie. Il loro territorio comprendeva Izrael, Kesulot, Sunem, Kafaraim, Sion, Anacarat, Rabit, Kision, Abetz, Remet, Enganim, Enkadda e Bet-Pazetz. Poi il confine giungeva a Tabor, Sakazim, Bet-Semes e faceva capo al Giordano. 16 città e i loro villaggi. Questo fu il possesso della tribù dei figli di Issacar, secondo le loro famiglie, queste città e i loro villaggi. La quinta parte sorteggiata toccò ai figli di Aser, secondo le loro famiglie. Il loro territorio comprendeva Kelkat, Kali, Beten, Aksaf, Alammelech, Amead, Miseal. Il loro confine giungeva verso occidente al Carmelo e a Sicor Libnat. Quindi piegava dal lato dove sorge il sole verso Bet Dagon, toccava Zabulon e la valle di Iftachel al nord, Bet Emek e Neiel, e si prolungava verso Kabul a sinistra e verso Hebron, Rekob, Ammon e Cana fino a Sidone la Grande. Poi il confine piegava verso Rama fino alla fortezza di Tiro, girava verso Cosa e faceva capo al mare. Incluse Mekebel, Akzib, Akko, Afek e Rekob, 22 città e i loro villaggi. Questa era la parte toccata ai figli di Aser, secondo le loro famiglie, queste città, con i loro villaggi. La sesta parte sorteggiata toccò ai figli di Neftali, secondo le loro famiglie. Il loro confine si estendeva da Kelef e dalla quercia di Bezannim ad Adami Nekeb e Yabneel fino all'Akkum e faceva capo al Giordano. Poi il confine piegava a occidente verso Aznot Tabor e di là continuava verso Kukkok. Giungeva a Zabulon dal lato di mezzogiorno, ad Aser dal lato d'occidente e a Giuda del Giordano dal lato di levante. Le fortezze erano Ziddim, Zer, Kammat, Rakat, Genezaret, Adama, Rama, Azor, Kedes, Edrei, Enazor, Ireon, Migdal El, Korem, Bet Anat e Bet Semes. 19 città e i loro villaggi. Questa era la parte toccata ai figli di Neftali secondo le loro famiglie, le città e i loro villaggi. Il settimo sorteggio fu per la tribù dei figli di Dan secondo le loro famiglie. Il confine del loro territorio era Sorea, Estaol, Irsemes, Saalabim, Ayalon, Itla, Elon, Timna, Accaron, Elteche, Gibeton, Baalat, Yeud, Beneberak, Gatrimon, Meyarkon e Raccon, con il territorio davanti a Giaffa. Ma la porzione dei figli di Dan risultò troppo piccola per loro. Perciò i figli di Dan salirono a prendere d'assalto l'Esem, la presero e la passarono a fil di spada. Come se ne furono impadroniti, vi si stabilirono, e all'Esem misero nome Dan, dal nome di Dan, loro padre. Questa è la porzione dei figli di Dan, secondo le loro famiglie, queste città e i loro villaggi. Quando ebbero finito di sorteggiare il paese, secondo le sue ripartizioni, i figli di Israele dettero in mezzo a loro una porzione a Giosuè, figlio di Nun, conforme alle disposizioni del Signore. Gli dettero la città di Timnat-Serak, che egli aveva chiesto sui monti di Efraim. Egli la ricostruì e vi abitò. Queste sono le eredità che il sacerdote Eleazaro, Giosuè, figlio di Nun, e i capi famiglia delle tribù dei figli di Israele sorteggiarono in Silo davanti al Signore all'ingresso della tenda del convegno. Così posero termine alla distribuzione della terra. Il Signore così parlò a Giosuè: rivolgi la parola ai figli di Israele e di loro: sceglietevi le città di rifugio delle quali vi ho parlato per mezzo di Mosè, in modo che vi si possa rifugiare l'omicida che ha ucciso per inavvertenza senza accorgersene, e se saranno di rifugio contro il vendicatore del sangue. E quando sarà fuggito ad una di queste città, si fermerà all'ingresso della porta della città ed esporrà il suo caso agli anziani di quella città. Essi lo riceveranno nella loro città, gli assegneranno un posto sicch'egli possa abitare con essi. Se il vendicatore del sangue lo inseguirà, non gli consegneranno in mano l'omicida, perché egli ha percosso il suo vicino senza accorgersene, né prima gli ha portato odio. Egli rimarrà nella città fino alla morte del sommo sacerdote, che sarà in carica in quel tempo, e dopo essere comparso in giudizio davanti all'assemblea. Allora l'uccisore potrà tornare e andare alla sua città, nella sua casa, nella città, cioè, dalla quale era fuggito. Essi scelsero Cades, in Galilea, sulle montagne di Neftali, Sichem, sulle montagne di Efraim, e Kiriat Arba, cioè Hebron, sui monti di Giuda. Oltre il Giordano, a oriente di Gerico, scelsero Bezer, nella regione desertica dell'altipiano della tribù di Ruben, Ramot nel Galaad della tribù di Gad, e Golan nel Basan nella tribù di Manasse. Queste furono le città stabilite per tutti i figli di Israele e gli stranieri che abitavano in mezzo a loro, perché potesse rifugiarvisi chiunque avesse ucciso per inavvertenza e non essere ucciso dal vendicatore del sangue prima di essere comparso davanti all'assemblea. Si presentarono poi i capi famiglia dei Leviti al sacerdote Eleazaro, a Giosuè figlio di Nun e ai capi famiglia delle tribù dei figli di Israele, e parlarono loro a Silo in terra di Canaan così: il Signore comandò per mezzo di Mosè di darci delle città per abitarvi e i loro dintorni per i nostri greggi. I figli di Israele dettero ai Leviti, dalle loro porzioni, secondo le disposizioni del Signore, queste città con i loro dintorni. Uscì la sorte per la famiglia dei Cheatiti. Fra i Leviti, ai figli del sacerdote Aronne, toccarono in sorte 13 città nella tribù di Giuda, nella tribù di Simeone e nella tribù di Beniamino. Ai restanti figli di Keat, secondo le loro famiglie, furono assegnate per sorteggio 10 città nella tribù di Efraim, nella tribù di Dan e nella mezza tribù di Manasse. Per i figli di Gerson, secondo le loro famiglie, furono sorteggiate 13 città nella tribù di Issacar, di Aser, di Neftali e nella mezza di Manasse nel Basan. Ai figli di Merari, secondo le loro famiglie, furono sorteggiate 12 città nelle tribù di Ruben, di Gad e di Zabulon. Così i figli di Israele sorteggiarono fra i Leviti queste città con i loro pascoli, come aveva disposto il Signore per mezzo di Mosè. Essi dettero dalla tribù dei figli di Giuda e dalla tribù dei figli di Simeone quelle città di cui vengono ricordati i nomi. Questa fu la porzione per i figli di Aronne, appartenenti alle famiglie levitiche dei Cheatiti, per i quali fu estratto il primo sorteggio. Furono date loro Kiriat Arba, padre di Anak, cioè Hebron, sui monti di Giuda, e i pascoli circostanti. Ma i campi della città e i villaggi d'intorno furono dati a Caleb, figlio di Jefunne, in sua proprietà. Ai figli di Aronne, sacerdoti, furono date le città di rifugio per l'omicida, cioè Hebron e i suoi pascoli, Libna e i suoi pascoli, Yattir e i suoi pascoli, Estemoa e i suoi pascoli, Debir e i suoi pascoli, Olon e i suoi pascoli, Ain e i suoi pascoli, Jutta e i suoi pascoli, Bet-Semes e i suoi pascoli, 9 città di quelle 2 tribù. Della tribù di Beniamino, Gabaon e i suoi pascoli, Geba e i suoi pascoli, Anatot e i suoi pascoli, Almon e i suoi pascoli, 4 città. In tutto le città dei sacerdoti, figli di Aronne, furono 13 città con i loro pascoli. Alle famiglie dei Leviti figli di Keat, cioè agli altri figli di Keat, furono assegnate per sorteggio alcune città nella tribù di Efraim. Fu data loro, come città di rifugio per l'omicida, Sichem e i suoi pascoli sui monti di Efraim, poi Gezer e i suoi pascoli, Kibzaim e i suoi pascoli, Bet Oron e i suoi pascoli, 4 città. Nella tribù di Dan, Elteke e i suoi pascoli, Gibeton e i suoi pascoli, Aialon e i suoi pascoli, Gat Rimon e i suoi pascoli, 4 città. Nella mezza tribù di Manasse, Taanach e i suoi pascoli, Ibleam e i suoi pascoli, 2 città. In tutto per le famiglie dei figli di Keat, 10 città con i loro pascoli. Ai figli di Gerson, delle famiglie levitiche, nella mezza tribù di Manasse, come città rifugio per l'omicida, diedero Golan nel Basan con i suoi pascoli, poi Astaroth con i suoi pascoli, 2 città. Nella tribù di Issachar, Chision con i suoi pascoli, Daberat e i suoi pascoli, Yarmut e i suoi pascoli, Enganim e i suoi pascoli, 4 città. Nella tribù di Aser, Miseal e i suoi pascoli, Abdon e i suoi pascoli, Kelkat e i suoi pascoli, Rekob e i suoi pascoli, 4 città. Nella tribù di Neftali, la città rifugio per l'omicida Cades in Galilea e i suoi pascoli, Cammot Dor e i suoi pascoli, Cartan e i suoi pascoli, 3 città. In tutto le città date ai Gersoniti, secondo le loro famiglie, furono 13 città con i loro pascoli. Alle famiglie dei figli di Merari, i leviti rimasti, furono date, nella tribù di Zabulon, Jocneam e i suoi pascoli, Carta e i suoi pascoli, Dinna e i suoi pascoli, Nalal e i suoi pascoli, 4 città. Nella tribù di Ruben, la città rifugio per l'omicida, Bezer e i suoi pascoli, Yaz e i suoi pascoli, Kedemot e i suoi pascoli, Mefat e i suoi pascoli, 4 città. Nella tribù di Gad, la città rifugio per l'omicida, Ramot nel Galaad e i suoi pascoli, Macanaim e i suoi pascoli, Kesbon e i suoi pascoli, Yazer e i suoi pascoli, in tutto 4 città. In tutto, le città sorteggiate per i figli di Merari, cioè alle restanti famiglie dei Leviti, furono 12 città. In tutto, le città dei Leviti, in mezzo alla proprietà dei figli di Israele, furono 48 città con i loro pascoli. Ciascuna di queste città comprendeva la città e i pascoli intorno ad essa. Così era di tutte quelle città. Così il Signore dette a Israele tutta la terra che aveva giurato di dare ai loro padri. Essi la conquistarono e vi si stabilirono. Il Signore dette loro riposo tutti intorno, conforme a quanto aveva giurato ai loro padri. Nessuno poté resistere loro fra tutti i loro nemici. Il Signore consegnò in loro potere tutti i loro nemici. Non fallì una sola cosa di tutte le buone promesse che il Signore aveva fatto alla casa di Israele. Tutto si compì. Allora Giosuè chiamò i Rubeniti, i Gaditi e quelli della mezza tribù di Manasse e disse loro: «Voi avete osservato tutto quanto vi comandò Mosè, servo del Signore.